si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona Pasqua. In questa puntata speciale registrata di Pasqua, dunque andiamo in onda dopo, non lo so, non possiamo fare riferimenti all'attualità. Beh, insomma, l'attualità zero. È che è Pasqua, che sta per risorgere Gesù Cristo. Però, però tipo, che tempo fa? Non lo so, perché no, oggi c'è il sole, magari a Pasqua... Che tempo fa? No, ma il fatto che Gesù risorga è una certezza, direi, giusto? Sì, direi. Assolutamente di sì. È da 2000 anni che è così e quindi anche oggi ne siamo felici. Oggi sentirete tutte storie nuove, naturalmente non ci sarà coinvolgimento degli ascoltatori in diretta essendo la puntata, come abbiamo detto, registrata. Partiremo dal come dire, cioè dal timore di questo sciopero agli Uffizi, museo più visitato d'Italia, proprio a Pasqua, cioè oggi e domani, sciopero che poi è andato, insomma, l'hanno sospeso, hanno tolto perché hanno trovato un accordo, sembrava un per po' di fortuna, fare la solita cosa un po' all'italiana. Quei turisti che arrivano nell'anno di Expo tutto chiuso, no, trovato tutto l'anno, è bello, nell'anno di Expo è tutto chiuso. Poi avremo una storia bellissima, la locanda dei girasoli a Roma dove lavorano ragazzi con la sindrome di Down. Andremo a Pietrasanta dove il comune vuole costruire una foresta dentro la città, cioè costruire, no, come si dice, far vivere, coltivare, far crescere, impiantare. E poi una storia incredibile da Kabul in Afghanistan con una giovane italiana che ha creato una startup nel mondo della, dell'educazione, nelle scuole e nell'editoria, una startup premiata, dove tra l'altro si prevede anche l'impiego dei cantastorie. Per una scuola per cantastorie, una storia bellissima, è vero, è proprio vero. E allora, possiamo dargli i nostri contatti, però se gli ascoltatori che ci stanno sentendo adesso vogliono commentare le storie che sentono, inviarci commenti o che cosa, insomma. Il nostro contatto di Facebook, che si può fare trattino Radio 24, oppure il nostro contatto di Twitter, che è @sipofare24, oppure i nostri account personali. Il mio è @CarloGabardini e il mio @AleMaurizzi. Vai, iniziamo. Ricordi Paola e Chiara? Certo, amici come prima. Tanto, tanto. Sono passati un po' di annetti, però ci stava oggi perché anche i protagonisti della nostra storia sono tornati amici. Ah, perché pensavo perché si chiamassero Paola e Chiara anche il nostro ospite si chiama Marco Conficconi ed è il segretario generale della Will Tux Toscana. Buongiorno, buona Pasqua, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti, buona Pasqua anche a voi. Buongiorno. L'abbiamo messa un po' così sul ridere, siete tornati amici come prima, chi? Voi, il sindacato e l'azienda che gestisce i servizi al Museo degli Uffizi. Insomma, abbiamo detto, c'è stato questo sciopero evocato, poi bloccato dal garante per questioni che adesso poi lei ci spiegherà. In realtà la buona notizia è che si è trovato un accordo col Ministero dei Beni Culturali, non c'è più lo sciopero, oggi a Pasqua gli Uffizi sono aperti. Questa è una buona notizia intanto, no? apertissimi, potete andare tranquillamente a visitare. Ma non mi sembra molto contento lei, però. No, io ovviamente sono contentissimo. Ah, perfetto. Dei lavoratori più certo caldo. Sì, perché cioè, il timore era di trovare questi Uffizi chiusi, il museo più importante d'Italia, e che i turisti si trovassero di fronte all'ennesima cosa un po' all'italiana, ma come proprio nel giorno della festa. Però a noi ci stanno a cuore naturalmente anche i diritti dei lavoratori. Se c'è uno sciopero ci sarà un motivo. Il punto, credo aver capito, sono i nuovi bandi per gestire i servizi nei musei italiani, e l'azienda che i lavoratori, quasi 400 che ci lavorano, avrebbero rischiato di perdere il posto. È così? Quasi. Allora, diciamo, ovviamente anche a noi sarebbe dispiaciuto per i turisti, però sarebbe dispiaciuto molto di più per quelle 400 persone. Questi sono lavoratori che lavorano in concessione dallo Stato, dal Ministero, e quindi il confronto non era con l'azienda quanto con il Ministero, che all'inizio non era intenzionato a dare alcune certezze che ovviamente garantiscono il posto di lavoro a queste persone. Queste certezze sono legate, ho capito bene che il punto era i bandi che il Ministero dei Beni Culturali vuol fare per gestire i servizi, caffetterie, librerie, bookshop, eccetera. Certo. Quindi l'azienda per cui lavorano questi lavoratori poteva essere estromessa e loro restare senza lavoro. No, l'azienda attuale potrebbe sempre essere estromessa, ma noi non siamo affezionati a un'azienda piuttosto che un'altra, noi siamo affezionati ai lavoratori. I prossimi bandi sicuramente ai prossimi bandi parteciperanno tante aziende, perché sono concessioni importanti. Ecco, per esempio, di che servizi parliamo? Scusi, per far capire. Stiamo parlando proprio di quelli che dicevi, cioè bookshop, piuttosto che caffetterie, piuttosto che vendita biglietti, solo servizi aggiuntivi. Ma quindi a questo punto si è deciso che se dovesse cambiare azienda, quindi un'altra azienda decide di impiantare un bar dentro negli Uffizi, in realtà deve mantenere i lavoratori che sono attualmente impiegati, giusto? No, allora i locali ci sono già e sono del Ministero. Se il Ministero dovesse dare la concessione a un'altra azienda, sì, in quel caso con i bandi che aveva intenzione di fare non ci sarebbe stata la garanzia dei posti di lavoro per queste persone. E invece adesso c'è, giusto? Adesso siamo riusciti tutti molto tranquillamente a far comprendere le nostre ragioni, e il Ministro, devo dire onestamente e correttamente, ha sottoscritto una clausola sociale che garantisce a questi lavoratori la continuità e anche il rispetto nelle prossime concessioni della parte salariale. Spieghiamo però anche la ratio della controparte vostra, in questo caso il Ministero dei Beni Culturali, sì, perché hanno tirato fuori, non perché ce l'hanno con questi lavoratori, ma insomma la possibilità con questi nuovi bandi per, ripetiamo, biglietterie, bookshop, caffetterie, credo anche guardaroba, eccetera, eccetera, di aprire, diciamo, di più alla concorrenza, cioè per migliorare il servizio, migliorare la gestione, introdurre un elemento di concorrenza che, come si sa, può anche essere, in genere è salutare, spinge anche a migliorarsi. Era questa la ratio? La ratio voi, come dire, siete d'accordo su questa ratio o già eravate contrari a questo? No, assolutamente, noi siamo d'accordo sulla concorrenza, perché la concorrenza fa bene ai turisti e fa bene ai cittadini di Firenze in generale, perché anche i cittadini di Firenze, di Toscana, sono cultori. Certo. Quindi non è un problema di concorrenza, ma la concorrenza non si fa sui lavoratori o cambiando quei lavoratori che da 20 anni svolgono il servizio. Sì, perché voi da qua, cioè voi, insomma, lei rappresenta questi lavoratori che sono lì da quanti anni? È dal 1998, è stata la prima concessione, perché okay. È tutto gestito da lavoratori ministeriali. Sì, sì, sì. Diciamo anche il nome, che è bello il nome della società, Opera Laboratori Fiorentini, è così? Per il momento sì. Quindi questo ci sta dicendo, ok, la concorrenza però non, diciamo, sulle spalle dei lavoratori, ma migliorando il servizio ai cittadini e ai turisti, perché questo è sicuramente migliorabile. Chiunque venga oggi a vedere l'entrata degli Uffizi, parliamo di Uffizi perché è quello che ha fatto più clamore, ma i musei sono tantissimi. Chiunque venga a vedere oggi o vedrà a Pasqua i musei, Vedrà che ci saranno grandi code. Quindi ci sono cose che possono essere migliorate, per esempio meno code. Assolutamente, meno code, una biglietteria diversa, un sistema diverso di ricevere il turista. Ma mi scusi, ho capito bene che se quindi qualcuno decide di gestire, qualcun altro gestirà il bar degli Uffizi, dovrà mantenere i lavoratori che adesso ci sono, oppure quei lavoratori sono garantiti dallo Stato anche su altri lavori? No, allora lo Stato a quei lavoratori non garantisce niente, perché non sono dipendenti dello Stato, dipendenti di una società privata. Sì. Lo Stato gli garantisce che nella prossima concessione che darà alla prossima azienda che vince il bando, quindi concederà all'azienda che vince il prossimo bando di gestire questi servizi. Mantenendo però quei lavoratori. Mantenendo quei lavoratori. Quindi si tratterà di aziende che dovranno in qualche modo non prevedere già di avere il personale tutto prima, ma fare conti con quel personale che c'è adesso. Quindi diciamo questo. Sì, in parte sì, però è anche okay. Ora noi non abbiamo, per velocità, non affrontiamo una serie di materie, ovviamente, anche se sì. Siamo a passo, non vorrei studiare più di tanto. No, intanto speriamo però di aver dato un messaggio positivo, andate agli Uffizi e in tutti gli altri musei. Poi insomma ci premeva anche di sentire il punto di vista dei lavoratori, perché va bene la concorrenza, va bene il ministro Franceschini, eccetera, eccetera, però volevamo sentire anche come la pensavano loro. Abbiamo chiamato lei per darci questo punto di vista. Bene, grazie per il momento. Grazie mille. Buona Pasqua anche a lei. Nuovo, al rappresentante della UIL della Toscana, Marco Conficco. Siamo partiti da qua, da Pasqua e dal Museo degli Uffizi, che è aperto, apertissimo, andate, visitatelo, c'è questa clausola sociale, quindi abbiamo capito bene, i lavoratori sono tutelati, ci sarà, bisognerà vedere se, insomma, adesso magari non c'era tempo di approfondirli, una nuova azienda sarà disposta a entrare dovendosi accollare poi tutto quel personale lì. Quel personale, no, ma perché me lo chiedevo, perché magari uno decide di fare come novità appunto per la concorrenza, di aprire negli Uffizi un bar dove tutti i camerieri vanno sui pattini a rotelle, e magari con quelli il personale che già c'è fare. Non lo vogliono fare, era per questo che glielo chiedevo. Benissimo, cari ascoltatori, ci risentiamo tra un attimo dopo una brevissima pausa. Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud, vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Piuttosto, piuttosto, che una verde una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco. Moda della lingua, un po' settentrionale che ci porta a violentare alcune parole. Piuttosto che usato come oppure con l'accento milanese e due o tre parole inglesi. La puoi sentire in radio, in televisione, ha contagiato tutta Italia, senza esclusione. È diventato un codice e quello che diverte, con l'accento giusto si apriranno tante porte. Le porte degli aperitivi, delle feste in villa, di gente che la lingua non la mastica, la frulla. Piuttosto, piuttosto, è una bella una parola composta. Piuttosto, piuttosto, che vuol dire pressa poco. La canzone del piuttosto di Giacomo Lariccia, sai questo uso di dire piuttosto che, piuttosto, piuttosto, sì, certo, molto certo. Milanese, molto sì, milanese. Sì, c'è una lotta Milano-Roma classica, tipica sul piuttosto, usato scorrettamente. Esatto, è uno dei tanti errori che si fanno, parlando l'italiano va bene, ma questo è solo uno degli aspetti, degli assalti alla lingua italiana, gli altri vengono dalle parole straniere, da un'esagerazione di inglese, di inglesismi, anche quando non servirebbero. Tra un po', anche solo per sentir parlare italiano, tanto per tornare al discorso di prima dei musei, bisognerà andare in un museo, dove il museo della lingua italiana, perché mi sembra esagerata questa posizione, però è giusto, tu hai una posizione molto intransigente sull'uso di parole straniere che e condividi. Tu dici sempre che perché io non so l'inglese. No, non volevo ritornare su quello, però no, è vero, l'abuso è molto molto fastidioso. A Milano direi che se ne fa soprattutto in alcuni campi, soprattutto tipo in campi della pubblicità, marketing. Io me ne sono segnate alcune: conference call, per dire una videoconferenza, oppure cioè adesso va di moda dire una questione pending, per una questione pendente che deve essere risolta. Si dice pending. Delle cose pazzesche. C'è una petizione proposta da Anna Maria Testa, Dillo in italiano, l'abbiamo citata più volte. Oggi, a sostegno di questa iniziativa, abbiamo con noi il presidente, niente po' di meno che, dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. Benvenuto e buona Pasqua. Buongiorno, grazie. Buongiorno presidente. Senta presidente, quanti anni di vita li diamo all'italiano prima che scompaia definitivamente? La vuole mettere così male, ma no. No, sì, se andiamo di questo passo, sarebbe, si usano delle parole assurde, super inutili. Speriamo che non vincano, che vede che poi nascono delle reazioni improvvise, per esempio, intanto la Riccia, il cantautore, pensi che si è rivolto anche alla Crusca, che voleva utilizzare la facciata dell'Accademia, infatti io gli ho concesso questo, non so se poi l'ha fatto. E la Testa, che è partita con questa sua straordinaria petizione, che ha raccolto appunto 70.000 firme. Voi siete un po', diciamo, ancora, il tempio. 100.000 firme, ma adesso è interrotta ormai è arrivata sul tavolo del direttivo della però Catena. Cosa si può fare con delle firme? Cioè, si può veramente aprire un dibattito, sollevare delle discussioni, poi capire anche se è giusto o se è sbagliato. Io sono d'accordo con questa petizione, sono d'accordo con lei, magari ci sarà qualcuno che ci smentirà e che ci spiegherà invece che tutto va bene e che è tutto regolare. Dove si può arrivare? Cioè, si può coinvolgere le istituzioni, si può fare qualcosa? Certamente dentro la petizione c'è la richiesta di portare alle istituzioni, agli uomini politici, quindi bisognerà anche farlo, che poi non so quanto ci ascolteranno, però credo che la cosa importante sia suscitare un dibattito che faccia riflettere i parlanti, perché ci sono diversi tipi di parole straniere, cioè ci sono le parole straniere che entrano a livello alto, quantitative easing per esempio, che è arrivata adesso, ecco, che sono difficili da tradurre. Questa della Banca Centrale Europea di Mario Draghi. Sì. Che non è certo una parola trasparente, però ci si interroga e si dice: ma come si potrebbe dire? Vedi, però, vedi già però il presidente dove arriva a trasparente, cioè dice attenzione, perché a volte l'inglesismo, magari tecnico, giustificato, perché è un termine della finanza, però magari nasconde già qualcosa. Sì, nasconde, non è nato per nascondere, qualche volta no, certo, però, che quando in certi casi. Si capisce che se uno tanti strumenti finanziari swap ma mi chiedo, non c'è anche una funzione, diciamo, di unificare, perché parlando con tutta Europa si usa una parola di modo che in tutti i paesi della comunità europea si usi la stessa parola e non la traduzione in ogni paese. Questo è vero, però se lei cerca in Google traduttore quantitative easing, fa la scoperta che in tedesco, in francese e in spagnolo l'hanno già tradotto. Ah, perfetto, vedi, perfetto. Poi lo cerca l'equivalente italiano e le esce la parola inglese. Però ecco, questo noi mi fa sempre i più veloci a non tradurre. No, questo c'ha ragione. Mi fa venire in mente due cose. La prima è che questa è una vecchia tradizione. Per esempio, la parola computer, che noi abbiamo mutuato pari dall'inglese, in spagnolo c'è la computadora, in francese hanno l'ordinatore. Quindi è una nostra vecchia abitudine culturale, cioè abdichiamo e non facciamo il passo di fare la traduzione, ecco, perché secondo questa, lei? Questa è una delle cose appunto che la Testa ha sollevato, che perché per tanti motivi è una debolezza culturale degli italiani, un provincialismo, il timore di essere provinciali, per cui si accetta sempre ciò che è forestiero, però la sensibilizzazione della gente secondo me non va fatta tanto su queste parole impegnative e difficili, queste dell'economia, ma sulle parole inglesi stupide. Per giusto, esempio, di uso comune. Perché la gente che fa i giudizi su TripAdvisor deve scrivere sempre location invece di luogo. La location, allora, mi fa impazzire anche a me la location. Allora, molto milanese location. Quando è molto milanese, quando uno si riempie la bocca con queste parole inglesi assolutamente inutili. Però ecco, come lo tradurrebbe lo che? Perché anche in questo caso location cosa vuol dire? Vuol dire non proprio posto. Luogo. È un bel posto, che vuol dire? Un posto che va bene, che è fortunato, che è piacevole, vuol dire luogo. Luogo, vuol dire luogo. Sì, luogo. In realtà si usa con un'accezione luogo dove avviene un evento, oppure viene usato quasi volte, come set a volte al posto della parola set. Si attribuisce alla parola inglese un valore tecnico che non ha nemmeno. Verissimo. Con la Testa si discuteva di buffer, che alcuni credono che sia insostituibile, ma anche in inglese ha una polisemia, perché il buffer si usa in inglese per la musica, nella chimica, nell'informatica, quindi ha la stessa polisemia che ha tampone, memoria tampone in italiano, non è meno tecnico di buffer, lo è esattamente allo stesso modo. Certo. Le faccio un altro esempio io che mi ha fatto impazzire recentemente, che nella scuola di mia figlia per vedere l'asilo fanno l'open day, cioè le famiglie che non hanno ancora i figli iscritti possono andare e vedere. Ma perché non posso dire le giornate di apertura? Beh, giornate però, aperte, le giornate aperte. Giornate aperte. Questo non dico che sia stupido come location, no? Location fosse raggiungere il massimo dell'utilità, però certamente segna un eccesso di dipendenza. Cioè non è che sono parole che non abbiamo, open day, giornate aperte, punto. Naturalmente quando l'Accademia... Ma chi è, scusi, voi avete fatto magari un'analisi, uno studio, una sua opinione personale, chi è che sta nei gangli della società e che è per primo che adotta questi inglesismi e poi si diffondono come un virus? Molte volte sono anche i giornali che li diffondono, i mass media o mass media, no? Però media. C'è da dire che i tempi sono maturi, sì, per un comportamento diverso, e le dico subito perché. Pensi che dopo l'iniziativa fatta con la testa in Accademia della Crusca, in cui abbiamo discusso di anglicismi, sì, è arrivata una proposta che io ho subito accolto con grande gioia, per cui il 29 maggio avremo in Accademia i rappresentanti dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, e il presidente Patuelli, sì, che ha voluto venire a discutere di lingua dell'economia e anglismi, quindi proprio da parte dell'ABI. Ed è molto importante, perché quando l'idea di discutere questi problemi parte, sì, dalla Crusca, immediatamente scatta l'accusa, ecco i passatisti, i conservatori, eccetera. L'idea è dell'ABI, quindi c'è qualcuno al vertice di questi organismi, sì, che non possono essere giudicati passatisti. Ma Razzini, sarà proprio il vento della trasparenza che si sta un pochino, sta entrando un po' anche nelle stanze così delle banche, perché io ne sono felice. Quello che diceva lei prima è che a volte certi anglismi, certi termini che derivano dalla finanza nascondono in realtà, ci sono contratti, certo, lunghissimi, nessuno legge nulla, si chiama swap, uno firma, paga e poi alla fine si trova lo swap rosso. Differenziale, no? Sì. Tra l'altro, ma anche Jobs Act, io credo che la si chiami così al posto di legge sul lavoro, perché sennò tutti si preoccupano e dicono: ah, ma è la legge sul nostro lavoro, invece Jobs Act, pensiamo che riguardi qualcun altro. Che riguardi come... La politica diventa ancora più pericoloso. Come se fossimo in un film. Esatto. Fra l'altro, diciamo anche questo, che è giusto che si sappia, ci sono parole italiane usate molto nella lingua internazionale, e questo anche per farci capire quanto potrebbe essere forte e dovrebbe essere forte l'italiano. Parole come panorama, studio, soprano, mortadella, ovviamente, bravo in Francia quando si applaudisce, dice bravosi. Quindi la forza di un paese, certo, è anche quella di proporsi all'estero con la, sì, propria lingua, un paese, infatti, come l'Italia. Non si tratta, e tra l'altro non si tratta, perché naturalmente quando si fa questo discorso la risposta è: ecco, allora vedi che devi accettare anche le parole inglesi. Ma infatti nessuno vuole cacciare le parole inglesi. La reazione è di fronte all'eccesso. Cioè, oggi in certi ambienti, specialmente industriali, eccetera, la concentrazione di forestierismi ha varcato la soglia del ridicolo. Certo. È vero che manager in realtà arriva dall'italiano maneggiare? Eh sì, certamente. Quindi noi dovremmo chiamarli maneggioni, i nostri manager. Che sarebbe, finalmente, dillo in italiano, abbiamo un sacco di maneggioni. Grazie, grazie Claudio Marazzini. Prego. Presidente dell'Accademia della Crusca. Buona Pasqua ancora. Buona Pasqua, arrivederci. Vabbè, la sua parola più odiata e più considerata inutile è la location in inglese. Tu ne hai una in particolare? No, io intanto ci tengo d'ora in poi a chiamare maneggioni i manager. Sì. No, è la cosa che dicevo, che ho questa sensazione che Jobs Act, sentito così, è che sembra uno snack. E allora a tutti piace in realtà la legge sul lavoro è una cosa importante. Tra brand cool e top, quale mi piace di meno? Giornale radio cool, a dopo. Si può fare, si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori e ben ritrovati, buona Pasqua ad Alessio Maurizi. State con noi con Si può fare oggi, puntata speciale, puntata di Pasqua, puntata registrata. Mi raccomando, ditelo in italiano ogni volta che potete, se potete, quando potete. Era l'ultima storia che vi abbiamo raccontato prima del giornale radio. Abbiamo parlato col presidente dell'Accademia della Crusca di questa petizione, dillo in italiano, lanciata da Anna Maria Testa per, insomma, così promuovere, salvaguardare, diffondere, difendere la nostra bellissima lingua italiana. Tra poco conosceremo un grande italiano che lavora all'estero, un meteorologo, un ricercatore che si è fatto strada in America e tra l'altro, insomma, non sono buone notizie per quanto riguarda il tempo in questi giorni di Pasqua, perché il tempo non è granché, ma aspettando Pasquetta sicuramente migliorerà, ci sarà il sole. Cari ascoltatori, restate con noi, tra pochissimo torniamo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cambiando ancora il tempo cambia sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta fa bufera e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna. C'è ancora una canzone, bagnata un po' nel vino. Mentre infuria la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. Le poltrone sono calde, stan lì seduti saldi, finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare, dentro il quadro generale, che vorrebbero ma non possono ignorare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, puntata registrata questa qua di Pasqua, speriamo che ci sia bel tempo in giro. Diventa difficile, dobbiamo dire anche che oggi è il primo aprile, allora a questo punto possiamo dirlo, ma certo. Infatti è tutto uno scherzo, io pensavo che tu mi avessi convocato qua perché in realtà era uno scherzo questo. Ma tu non è sei che stiamo tu registrando. E io non sono io. Esatto. Chissà se le previsioni meteorologiche ci hanno azzeccato, qui volevo arrivare, perché si torna a questionare, a polemizzare tra comuni e protezione civile, ma anche meteorologi, per la questione delle previsioni del tempo, allarmi sbagliati, previsioni che cambiano all'ultimo minuto, c'è da impazzire. Gente che esce in motorino e poi dopo si prende l'acquazzone, questo eri tu, questo esatto. Eri tu per esempio. Noi ne parliamo con Luca Delle Monache from America. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno a voi. Buongiorno. C'è un po' di ritardo perché Luca è ricercatore al National Center for Atmospheric Research di Boulder in Colorado. Ho detto tutto abbastanza bene? Direi di sì, abbastanza bene. Boulder. Boulder, ecco. Luca, possiamo darci del tu? Tu sei un ricercatore. Senz'altro. Ecco, un ricercatore italiano. Da quanti anni in America? Sono negli Stati Uniti da poco più di 15 anni. Direi in Nord America, sia negli Stati Uniti che in Canada. Beh, insomma, quindi un bel tempo. Il centro di ricerca dove lavori è un centro di ricerca in America che si occupa di che cosa esattamente? Sì, qui ad Anchor noi facciamo ricerca per scienze dell'atmosfera. E il range delle ricerche va dalla ricerca di base per fare scoperte fondamentali a un range di applicazioni dove le ricerche di base possono essere applicate, che include dalle previsioni meteorologiche a breve termine a studi sui cambiamenti climatici. Ecco, vedi, io pensavo di non capire proprio nulla, essendo Luca uno scienziato, invece qualcosa stiamo capendo. Ti viene attribuito in qualche modo una scoperta, Luca, in qualche modo insomma l'invenzione, l'ideazione di un modello di previsioni meteorologiche un po' diverso, un po' innovativo, che sembra molto preciso. Ci vuoi raccontare? Sì, ho introdotto qualche anno fa un metodo che si chiama Analog Ensemble, che in realtà si basa di un concetto che nella nostra comunità, nella comunità dei fisici dell'atmosfera, è stato esplorato per decenni. Quello che abbiamo proposto noi, dico noi perché la ricerca che faccio io è in collaborazione con molti collaboratori sia negli Stati Uniti che in Europa, è praticamente una nuova implementazione di questo metodo, è basato sul concetto dell'analog. L'idea di base è che aiutaci un po', perché qua già sull'analog noi facciamo già delle facce strane solamente se usi delle parole inglesi, quindi figurati un po'. Io sono lo stupido dei due, devi trattarmi come tale. Sì, se non capite è per colpa mia probabilmente. No, è colpa mia di sicuro. Provo a spiegarvi l'idea di base. Sì. Noi come scienziati dell'atmosfera, quando guardiamo al cielo in questo momento, guardiamo le nuvole, la configurazione dell'atmosfera in questo momento, okay, abbiamo un feeling, una sensazione innata che questo tipo di configurazione, questo tipo, sì, di stato dell'atmosfera l'abbiamo già osservato in passato. Ok. Cioè, allora, ricordiamo. Scusami, dicevi quindi che la riconosciamo in qualche modo? Sì, in qualche modo si può riconoscere, si vede che questo pattern, come lo chiamiamo noi qui negli Stati Uniti, è già accaduto. Certo. Allora, l'idea di questa metodologia è utilizzare un dataset storico che include previsioni dal passato, sì, e cercare quelle previsioni del passato che sono molto simili alla previsione di oggi. In un particolare punto spaziale, per esempio una città, Roma, Milano, è un particolare momento del giorno. Cioè, scusa, in pratica adesso provo a sintetizzare e a brutalizzare, sbaglierò sicuramente, però cioè, mentre i modelli di previsione del meteo normalmente guardano solo ed esclusivamente al futuro per il futuro, cioè tu guardi al passato, rovesci un po' il punto di vista, cerchi una situazione simile che c'è stata nel passato e vai a vedere come si è evoluta e a quel punto dici, ok, secondo me questo è quello che accadrà, perché in passato è accaduto così. E ci azzecchi, però, questa è una cosa interessante. Sì, funziona, è molto semplice come metodologia, però funziona. E l'altro aspetto importante è che una volta che abbiamo trovato previsioni del passato che mm-hmm. sono simili alla previsione di oggi, andiamo a guardare le misure che sono state prese che corrispondono a quelle previsioni del passato, che sono disponibili, visto che stiamo parlando di quantità che sono state misurate nel passato. Queste misure, sì, diventano la nostra previsione del futuro. Okay. Quindi l'aspetto innovativo di questa tecnica è che praticamente la previsione è fatta con misure del passato. Perfetto. Senti Luca, ma scusami, ma è chiarito più o meno questo è il tuo metodo, insomma, poi se fossimo in un ambito di una rivista scientifica diremmo qualche cosa in più, ma speriamo che i nostri ascoltatori già fin qua ci abbiano seguito, credo di sì. Siccome non lo siamo, possiamo semplicemente dire che l'idea è geniale, perché rivendere le previsioni del passato come se fossero quelle del futuro è veramente straordinario. È anche una forma di risparmio per i meteorologi. No, a parte gli scherzi, anche lì in America ci sono polemiche su polemiche per le previsioni, i comuni contro la protezione civile, perché non ci si trova mai d'accordo di chi è la colpa su queste cose qua? Forse sì, ci sono polemiche, però sono un po' più equilibrate per quel poco che ho visto ciò che è. Insomma, noi sulle polemiche noi in Italia la sappiamo lunga, questo sicuramente sì. Noi siamo tra i migliori nel polemizzare. No, in realtà il discorso fondamentale è che l'atmosfera è un sistema caotico. Sì. Ciò significa che piccoli errori iniziali crescono in un lasso di tempo finito, diciamo in una settimana, due settimane o anche alcuni giorni a seconda delle situazioni, sì, ad un punto tale che la nostra previsione ha lo stesso valore di una previsione totalmente casuale. Il famoso battito di farfalla che può creare dall'altra parte del mondo. Senti, però è vero che questo metodo di previsione del tempo può far risparmiare, in quanto essendo più preciso, anche energia? Questo è quello che viene detto negli articoli che si occupano della tua scoperta, insomma, in qualche modo. Come? Sì, esattamente, il discorso è che questo metodo fornisce non solo una misura, una previsione più precisa, ma anche una stima affidabile dell'incertezza di quella previsione. Uh-huh. E qui torniamo al discorso della farfalla. Cioè, è molto importante non solo avere delle previsioni accurate, ovviamente, ma anche sapere in anticipo qual è l'incertezza, per esempio, della previsione di domani. Questo quindi, in che modo ci fa risparmiare, però, scusa, per capire? Per esempio, penso l'articolo al quale fa riferimento, sì, è il discorso delle energie rinnovabili. Sì. Allora, il problema delle energie rinnovabili, come per esempio il vento, sì, è che sono molto hanno una molto variabile, un grado di variabilità molto più alto di altre, per esempio come il nucleare o basate sul carbone. Ok, chiaramente se non c'è vento non funziona nulla. Il fatto che tu possa prevederlo, però, aiuta chi gestisce probabilmente questi impianti a... Esattamente, praticamente quando si fanno delle decisioni, cioè se il mio modello di previsione mi dice che domani c'è molto vento, per esempio il vento copre 80% del fabbisogno, se quella previsione è affidabile, una persona che gestisce accende tutte le turbine e ottiene il massimo sa che deve coprire con altre sorgenti solo il 20%, che okay, ovviamente risulterebbe in un notevole risparmio economico. Luca, un paio di curiosità anche però su di te, no? Cioè, tu ti ritieni un cervello in fuga, per esempio, sai che in Italia c'è questo dibattito, sei un ricercatore in un importante centro di ricerca americano, e forse è normale anche fare esperienze all'estero nel campo scientifico. La tua storia da questo punto di vista com'è? Sì, non so... Io sinceramente non mi ritengo in fuga, è stata una scelta. Io sono laureato in matematica a Roma durante le mie tesi ho fatto un'applicazione nel campo della qualità dell'aria e mi ero reso conto che come matematico ero molto forte dal punto di vista teorico, ma non avevo le basi della meteorologia. Ci fu l'opportunità di fare un master in meteorologia in California e andai perché per me quella era una bella opportunità. Ma sei sempre stato appassionato di meteorologia? Anche da bambino? No, in realtà no. Ah no, perché mi chiedevo come si diventa meteorologo. Sì, no, io un po' per caso, perché io in realtà sono sempre appassionato di matematica. Mi è sempre interessata molto la matematica e ovviamente la fisica dell'atmosfera, le strutture di base sono strutture matematiche. No, come dicevo, ho fatto la mia tesi per la previsione della qualità dell'aria, che comporta comunque conoscenze dei flussi atmosferici per capire dove gli inquinanti vengono dispersi, e da lì è nato il mio interesse, questo mentre durante la mia tesi all'Università Sapienza di Roma. Dici però un'ultimissima cosa, Luca, prima di salutarci. In America si investe di più o di meno, ma forse la risposta è implicita nel ruolo che hai, nel lavoro che fai, che in Italia nel campo appunto della meteorologia, della ricerca sul clima, eccetera eccetera? Sì, no, non c'è confronto. Non quella c'è secondo confronto. Me è la più grande differenza che c'è tra gli Stati Uniti, diciamo, e un po' l'Italia in particolare. Quello è il motivo principale per il quale ci sono tantissimi, io conosco tantissimi altri ragazzi italiani che sono venuti a lavorare in America, perché c'è, come direbbe Razzi di Crozza, c'è il crano in America. Grazie Luca grazie delle mille. Monache, grazie Luca delle Monache from Colorado. E questo insomma era un nostro ricercatore italiano che ha elaborato un modello interessante di previsioni in meteo che funzionano alla grande. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra pochissimo. Voglio dire, avevo paura, certo, ma continuavo a pensare, questa è la verità. Intrecci, passioni, avventure, amori. Non ti lascio solo, ma oggi credo che tu abbia un appuntamento. Asserri, portamelo qui! Per te un milione di volte! Audiogrammi, in radio come al cinema. Torna con nuove storie e nuove emozioni. Questo non è un buco. E che cos'è? È il posto dove si sta quando si muore. la domenica sera alle 20:10. Pensiamo sempre che la fortuna sia ciò che non si ha. Audiogrammi, le più belle storie dei film raccontate in radio. Anche in podcast su radio24.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. The Tokens, the lion sleep tonight, Carlo. Io sto ballando, sono felicissimo. Ma senti il nostro Andrea Piana cosa è andato a ripescare. Sono tornato giovanotto. Bellissima. Molto bella. La notizia è questa: a Pietrasanta vogliono costruire, creare una foresta nel centro della città, ma non una foresta qualunque, una food forest. È con noi e gli diamo il buongiorno e la buona Pasqua, il benvenuto Italo Vitti, assessore all'ambiente di Pietrasanta. Buongiorno a voi e auguri ancora. Buongiorno. Buongiorno, senta. Intanto abbiamo molte domande da farle, perché è un progetto curioso questo qua. Intanto, che cos'è una food forest? La food forest, lo dice un po' il termine, è una foresta che si mangia. Mm-hmm. E questa non è una nostra idea in realtà, ma è l'idea di un agronomo, Stefano Soldati, un esperto nazionale ma che va anche oltre i confini nostri, e tramite un'associazione di Pietrasanta, Luogo Comune, in particolare di alcuni soci che hanno una sensibilità, sì, ambientale molto molto alta, hanno fatto questa proposta al comune e noi l'abbiamo messa insieme con loro, l'abbiamo costruita, l'abbiamo pensata, progettata e realizzata. Una foresta che si mangia, quindi in sostanza una foresta dove dentro ci saranno... Ma non solo frutti di bosco? No, è uno spazio che fino a poco tempo fa, sì, era incolto e, sì, quindi è stato recuperato, tra l'altro in un luogo che è simbolico, perché è uno spazio che è dietro ad una scuola dell'infanzia, sì, e in aderenza ad un quartiere di edilizia popolare. Ah, quindi andiamo insomma anche in un punto. Terreno pubblico o privato? È un terreno pubblico. È un terreno pubblico, questo è anche un altro aspetto molto, sì, importante, che viene restituito alla comunità, e la comunità in qualche modo riesce, attraverso le relazioni che si possono costruire dentro questo luogo, a costruire, a produrre cibo e vita per, sì, la comunità stessa. Insomma, anche su questo noi di Si Può Fare ci siamo spesi tantissimo. Terreni incolti, abbandonati, ci sono in Toscana, per esempio, proprio la Banca della Terra, molti di questi terreni vengono dati a aspiranti agricoltori, persone che hanno un'idea, un'azienda agricola, eccetera. In questo caso è proprio il comune che prende un pezzo di un terreno abbandonato e dice: ci facciamo questo bel progetto qua, dove tra l'altro si parla anche di permacultura, un'altra parola difficile. Sì, è difficile di per sé, ma è molto naturale, tra virgolette, sì, nel senso che è un tipo di agricoltura che si fonda dall'osservazione della natura, che in qualche modo la natura si autoregola, la natura basa la sua forza sulle relazioni, ed è per questo che per noi è stato semplice il valore trasformare questo valore simbolico poi nella tentativo di costruire relazioni all'interno di questo quartiere, perché è un po' su questa mettere insieme le forze e soprattutto la biodiversità che permette la crescita di uno spazio che non ha bisogno di cura come un giardino pubblico, non è che si andrà lì a tagliare l'erba tutti i giorni, ma ce ne prenderemo cura, ma nello stesso tempo questo è uno spazio... Cioè una specie di foresta autosufficiente, una foresta autosufficiente. Dovrebbe essere così. Sì, dovrebbe essere così, è stata pensata così, e tra l'altro è una foresta che sfrutta anche la corretta disposizione verso il sole, per cui partiamo con degli orti, quindi dai tuberi che sono piante molto basse, ai decespugli, anche questi tutti... Saranno in gradazione in qualche modo? Saranno in gradazione in modo perché poi il sole, che è l'elemento determinante, non si dia fastidio e ci sia anche una crescita delle foglie in fase diversificate, e quindi in qualche modo ogni pianta aiuta l'altra. Ma quanto è grande questa foresta? Ecco, questo è uno spazio di circa 6.000 metri complessivamente. Che sono tanti o sono pochi per una città come Pietrasanta? Ci aiuti a quantificare? Non sei un esperto di foreste, Alessio, volevi dire? Che so, un campo di calcio quant'è? Più di meno? Beh, 100 per 50. Prego, prego. Sì, penso che sia un pochino più grande di un campo, sì. È un bello spazio grande. No, tra l'altro questa cosa che stavo dicendo prima, no, della permacultura, cioè quindi del favorire i cicli naturali e del rendere minimo l'impatto dell'uomo, no, dell'intervento, quindi anche la manutenzione, costi di manutenzione, credo che sia un argomento sensibile per un'amministrazione comunale. Perché mi sono fatto questa idea? Uno dei motivi per cui tante volte invece del verde pubblico troviamo il cemento pubblico ed è anche la questione che costa di meno la manutenzione. E certamente questo al comune costerà veramente poco, perché in realtà abbiamo predisposto una convenzione con l'associazione Luogo Comune che curerà per almeno 2 anni questo spazio, perché appunto le piante che si sono iniziate a mettere sono tutte piante tra l'altro da semi antichi, che sono state prese in un vivaio a Firenze. Per ora sono state messe a dimora una 40 di piante, nei prossimi mesi continueremo anche con l'orto in questo spazio, e quindi crescerà, ma nello stesso tempo ci sarà qualcuno che se ne prenderà cura. Noi speriamo che questo qualcuno siano soprattutto gli abitanti del quartiere, perché è un po' l'obiettivo, poi è quello. Infatti l'obiettivo mi sembra bellissimo, nel senso che mi sembra bellissimo il fatto di dire che la forza di una foresta in realtà sono le relazioni fra le varie piante, e voi volete stimolare questa cosa in realtà per stimolare anche le relazioni fra i cittadini di Pietrasanta. Quello che mi chiedo lì a prendere la frutta. Esatto, quello che mi chiedo è come si gestisce un orto comune, cogestito, un orto di tutti. Perché è vero, in effetti siamo abituati a orti privati, orti dati in gestione ai singoli, qua invece sarebbe una specie di orto pubblico. È un orto pubblico, in realtà noi abbiamo un'esperienza simile proprio nel centro della nostra città, che è proprio nel centro storico della nostra città, si chiama il Giardino della Lumaca, dove abbiamo un bellissimo orto piccolo, ecco, non di queste dimensioni, però è un orto che ci sono delle famiglie che vengono, lo curano, tutti i bambini possono salire e annaffiare, ed è una delle poche cose, tra l'altro non viene toccato, ma è in qualche modo rispettato da tutti, per cui lì andiamo, ci sono delle riunioni il giovedì, ci si ritrova con chi vuole, raccogliamo e poi dividiamo i frutti, quello che possiamo raccogliere durante l'estate. Senta, siamo nei pressi anche di un condominio, cioè una scuola materna, immagino che saranno forse anche coinvolti i bambini in questi progetti, si fa sempre così ed è giusto, mia figlia ha 4 anni ma crescerà senza sapere un tubo di quello che succede in campagna. Anche l'altra questione, quella del condominio che si trova lì di fianco, diciamo una cosa, avere un appartamento a fianco a una foresta, una food forest o comunque a un pezzo di verde pubblico grosso come questo, farà aumentare anche il valore di questi immobili, quindi è un investimento del comune che ha ricadute poi anche forse sui privati, si può dire questo? Ma io penso di sì, ecco, comunque ha un valore sociale, quindi il luogo che investe nel sociale penso sia un luogo che viene sempre valutato. Sì, no, ma il valore sociale non lo mette in dubbio nessuno, sì, però sì, no, prosaicamente credo che avere un appartamento che guarda su un parco ha un valore maggiore, quindi non credo che ci sarà nessuno che si lamenterà di questa operazione. No, anzi, noi preparare questo evento abbiamo fatto 3 giornate di lavoro, una prima giornata in cui abbiamo presentato il progetto alla città, una seconda giornata era un corso di formazione aperto, tra l'altro sono venute persone da quasi tutta Italia, e lo abbiamo fatto il corso dentro la stanza del condominio, che il condominio ci ha messo a disposizione, per cui sono venuti anche dei condomini, abbiamo scoperto risorse, ci sono dei ragazzi che stanno studiando scienze naturali, che si sono appassionati a questa idea, quindi diciamo che un piccolo seme che sta già facendo frutti, ecco, questo sicuramente. Benissimo, grazie mille, complimenti, grazie. In bocca al lupo a Pietrasanta. Grazie a tutti, arrivederci. Per chiunque ha fatto teatro, Pietrasanta è un posto importantissimo, perché c'è il work center di Grotowski non c'è più, però insomma il work center a Pietrasanta, e quindi sono felicissimo che adesso ci sia anche questa food forest. E cari amici ascoltatori, se conoscete storie di questo tipo o altre food forest che stanno nascendo nel vostro comune, nella vostra area, e ce la volete raccontare, scriveteci, noi siamo tutto orecchi, aspettiamo le vostre segnalazioni come sempre sui nostri social, ricordiamolo, Si può fare Trattino Radio 24, la pagina Facebook, l'account su Twitter è @ Si può fare 24. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito dopo. Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Ogni domenica alle 11 nella stazione di Radio 24. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Il vento passava le sbarre, fischiettando canzoni tristi, e portava i ricordi di vita, come nastri a colori già visti. La casa, gli amori, gli amici, l'ultimo libro sul comodino, il ricordo dei giorni felici, il mare, il cielo, i colori e il vino. E c'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare. Passava le sbarre, caldo d'amore ma un po' affannato, riscaldando l'ultimo giorno, quello più lungo di un condannato. E la luce inventava l'ombra e suggeriva il suo desiderio, diventare domani luce, sparire nel nulla, nel mistero. C'è un'altra storia da dire, una favola da raccontare, un amore che non può finire, una pagina da inventare. E c'è un'altra storia da dire, un aquilone che non sa volare, un uomo che presto andrà a morire, una pagina da colorare. E insomma, l'avevamo anticipato, questa è veramente una storia da raccontare, quasi una favola, ma è anche una storia concreta, in carne e ossa, un'azienda, una società guidata da una donna italiana in un contesto abbastanza difficile come l'Afghanistan. Adesso spieghiamo tutto, una storia che è stata anche tra l'altro raccontata da lei in un libro, Selene Biffi, fondatrice e presidente di Plain Inc. buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno e buona Pasqua, auguri Selene. Tanto, auguri anche a voi. Allora, per raccontare la storia di questa società, di questa impresa che tu stai portando avanti, bisogna fare un prequel, credo, no? Come si fa nelle serie televisive. È un prequel, abbiamo niente. Vuoi dire, ho usato una parola inglese. Esatto. Vabbè, questa volta ci voleva. Come si potrebbe dire in italiano prequel, Gabardini, tu che sei autore? Un precedente, un preambolo, una premessa. È questo, che Selene Biffi lavorava, una puntata zero, alle Nazioni Unite come consulente a Kabul nel campo dell'educazione, dell'innovazione sociale. Partiamo da qua, raccontaci quel momento lì. Ma quello è stato un po' un momento particolare, insomma, dopo quasi 8 anni di attività come consulente alle Nazioni Unite, in ambito però molto diverso da quello che mi si chiedeva di fare a Kabul, quindi in ambito di tecnologia applicata all'istruzione e tecnologia per lo sviluppo, mi viene chiesto questa volta di recarmi a Kabul per fare un lavoro un po' diverso, cioè stendere un sussidiario. Un sussidiario che potesse essere un po' un manuale delle giovani marmotte per bambini e comunità rurali. Una insomma. Parola bellissima, tra l'altro, sussidiario, per chi è un po' lontano dagli anni della scuola, no? Noi compresi. Che cos'è, ricordiamolo, sussidiario? È un libro dove si studia? Sì, è un libro che nel nostro caso, insomma, in Italia magari riunisce nozioni di storia, geografia e scienze in un paese come l'Afghanistan, doveva invece riunire tutte quelle conoscenze perse in 35 anni di guerra, quindi dalla salute pubblica alla sicurezza alimentare, dalla mitigazione dei disastri naturali, ad esempio all'accesso all'acqua pulita, quindi come ricrearsi un contesto migliore. Quasi di educazione civica, si diceva anche questa, una parola di un tempo. E tu, di fronte a questo compito che ti viene dato dalle Nazioni Unite di creare questo sussidiario, cominci a lavorare e scopri delle cose. Sì, comincio a lavorare e scopro moltissime cose, ad esempio il fatto che l'Afghanistan, essendo un paese in guerra da 35 anni, prevede purtroppo una popolazione che in 8 casi su 10 non è in grado di leggere o scrivere, quindi forse il sussidiario non è il progetto più adatto per un contesto come quello afghano. Quindi perché non tentare di fare invece una collana di fumetti? Perché dici che non è quello più adatto? Cioè, perché forse c'è anche un grado di scolarizzazione più basso? Assolutamente sì, appunto, dopo 35 anni di guerra 8 persone su 10 in Afghanistan non sanno leggere o scrivere. Infatti, no, era per questo che mi sembrava molto bello questo fatto di qualcuno che ti viene chiesto di fare un sussidiario, però tu ti informi sulla realtà locale e dici, ma forse qua conviene un fumetto, perché forse è più di immediata interpretazione, giusto? E lì scatta l'idea. E lì scatta un po' l'idea, quindi comincio a lavorare con illustratori locali, finirò per produrre il fumetto, però poi lì veramente germoglia l'idea di quella che sarà The Cast Academy, l'Accademia delle Storie a Kabul. Dei cantastorie. Sì, facci fare subito un saluto, introduciamo un'altra persona, poi ti spieghiamo perché. Simone Saccucci, ci sei? Sì, ci sono. Simone Saccucci, il nostro cantastore from Guidonia. Il nostro cantastore di riferimento, ciao Simone. Devi sapere, Selene, che Simone Saccucci racconta storie, fa un po' il cantastore nella provincia di Guidonia, nelle scuole, ma dove capita, nelle cave di marmo, lo ha fatto, nei negozi, insomma va ovunque. Proprio per portare avanti questa tradizione orale, quindi vogliamo che sia con noi per raccontarci un po' come questa storia che invece ci racconti tu dall'Afghanistan, da Kabul, possa avere un risvolto anche tutto italiano. Quindi dicevi, dalla prima società Plain Inc. si arriva a Cass Academy, tra l'altro tu hai ricevuto anche un premio per questa idea, stiamo parlando di una cosa che ha avuto riconoscimenti. Sì, allora Plain Inc. innanzitutto è una Ollus, quindi non è una società, è un'organizzazione non profit. Ok. The Cast Academy, l'Accademia delle Storie, il progetto di Kabul, è uno dei progetti che Plain Inc. in realtà cura. Quindi Plain Inc. utilizza le storie, i fumetti, i libri illustrati per cercare di dare a bambini e comunità strumenti tramite cui loro stessi possono trovare le loro soluzioni a problemi locali. In un paese come l'Afghanistan l'idea è stata appunto quella di recuperare la cultura orale e fare in modo che potesse diventare il perno di uno sviluppo differente. Questo progetto, che può sembrare bizzarro raccontato così, è un progetto che ha ricevuto il premio Rolex. Il premio Rolex che torna in Italia, quindi dopo 20 anni dall'ultimo vincitore, e lo fa per un progetto legato al recupero del patrimonio culturale. Ma Rolex l'orologio? Quello di Lupi? Rolex, si vince l'orologio? si vince l'orologio si vincono anche fondi per il progetto. Tra l'altro faccio un appello perché le application, quindi il bando è aperto anche quest'anno, quindi se c'è qualcuno in ascolto che se la sente di proporre un'idea sì, un po' bizzarra, magari può anche andare bene. Ottimo. Senti, ma nel contesto dove lavori tu, il committente, cioè la tua Onlus è finanziata a chi? Dalle Nazioni Unite. Questo lavoro lo fate diciamo con che tipo di sostenibilità economica? Perché per te è la tua attività, credo di aver capito, a tempo pieno. Allora, questa è la mia attività a tempo pieno, ma in realtà le mie bollette le pago facendo consulenze in ambito di imprenditoria e innovazione sociale, che è un lavoro che faccio ormai da 12 anni. Plin Inc. invece può portare avanti i suoi programmi in Afghanistan, in India e anche in Italia grazie ad esempio a donazioni, finanziamenti di fondazioni e sostanzialmente grazie all'aiuto anche di aziende che ci permettono appunto di proporre progetti di istruzione gratuiti per i beneficiari. Senti, ti vorrei chiedere anche un'altra cosa però a questo punto, un po' questo paese insomma lacerato da una lunghissima guerra, dalla presenza di eserciti stranieri, gli americani ma anche noi italiani, insomma la coalizione internazionale che aveva il compito di ricostituire forze dell'ordine e poi lasciare il paese un pochino come dire in equilibrio, in ordine. Com'è la situazione adesso nel paese? Ma la situazione del paese al momento è abbastanza instabile, nel senso che il grosso della coalizione si è ritirata a dicembre 2014, sì, lasciando un po' l'Afghanistan, tra virgolette, al suo destino. Quindi, insomma, dopo 13 anni di presenza internazionale, l'Afghanistan è un posto radicalmente differente, purtroppo mi viene da dire no, a livello di sicurezza, a livello di possibilità, a livello di uguaglianza di genere, a livello di diritti umani. Simone Saccucci, sì, ci sei? Sì, sì. Allora, abbiamo sentito cioè, perché Selena ha pensato di lavorare con la tradizione orale, con i cantastorie a Kabul, c'è l'analfabetismo. A Guidonia invece la gente sa leggere e scrivere, usa internet, e tu perché fai il cantastorie? Guarda, c'è un elemento in comune, nel senso che innanzitutto è il rendersi conto di chi hai di fronte, il fatto che Selena si chiama, non ho sentito Selena bene, no? Selena Biffi, sì, sì. Il fatto che lei dica che si è resa conto che il sussidiario non andava bene perché c'era un basso livello di alfabetizzazione è il rendersi conto di chi hai di fronte anche da queste parti, che poi è un po' la situazione italiana. Il rendersi conto per esempio del luogo in cui tu vai a raccontare è centrale, nel senso sempre di più mi accorgo nella mia piccola esperienza che i luoghi in cui ti ritrovi a organizzare momenti di incontro per raccontare o cantare storie sono luoghi che apparentemente non sono adatti a quel tipo di momento, e quindi il rendersi conto di questo ti permette di sfruttare ed usare meglio le occasioni e le risorse che tu trovi comunque in quei luoghi. Cioè partire da un handicap per farne un punto di forza. Esatto, sì. E tutto questo lo fai raccontando e però sì, agganciandoti alle storie della tradizione, e questo insomma tu trovi che abbia una forza anche nell'epoca appunto, ripeto, dei social network, della gente che comunica su Facebook e con WhatsApp. L'unico elemento che però... l'unico elemento che caratterizza questa epoca qui, e mi accorgo quando vado in giro, è l'abbassamento del livello d'attenzione quando si tratta di raccontare, quando hai di fronte qualcuno che racconta oralmente. Quindi, cioè tu cominci a raccontare e vedi la gente che manovra sul telefonino. non tanto quello. Così, no, così era un po' cattivella. No, sì, è chiaro. Però, è normale l'esperienza, stai parlando con uno che abbassa lo sguardo e guarda il cellulare. Questo oppure, ormai sta diventando... oppure meglio, più precisamente, qualcuno che non regge troppe parole che costruiscono un'immagine. Quindi devi cercare di far uscire subito un'immagine oralmente in maniera un pochino forte, più veloce. Selene Biffi, comunque complimenti e grazie per essere stata con noi. Grazie mille. Cosa vuoi fare da grande? Continuerai in questa impresa? Cosa voglio fare da grande? Sì. Allora, Plin Inc. sicuramente continuerà, ma al momento sono anche al lavoro su una serie di sensori che permettono alle comunità di identificare le mine antiuomo. Quindi, insomma, vedo cosa succederà. Non t'annoi mai, direi. No, diciamo che sono fortunata e, insomma... Grazie. Un'italiana, tra l'altro, premiata e che ha avuto riconoscimenti importanti, impegnata in questo momento in Afghanistan. Grazie, Selene Biff. Grazie, Simone Saccucci. Grazie a voi. Buona Pasqua. Grazie mille. Ciao.

parliamo di camerieri. In particolare siamo alla Locanda dei Girasoli, un ristorante che si trova nel quartiere Quadraro a Roma, dove non solo si mangia pizza e cucina romana, ma si vive un'esperienza piuttosto rara. A servire ai tavoli sono 11 ragazzi con disabilità cromosomiche, sindrome di Down, ma anche di Williams e sindrome X fragile. Abbiamo con noi Enzo Rimicci, presidente Consorzio Sintesi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e buona Pasqua. Grazie. Locanda aperta a Pasqua? Certamente. Certamente. E forse faremo la giornata del non agnello. Ah, e cosa consiste? Che non daremo l'agnello a Pasqua. Non sarà da noi. Beh, ma ce la deve spiegare un po' meglio, perché semplicemente non dare l'agnello, uno dice: ma che cosa ci date? Delle pizze in faccia? No, facciamo tutti i menù non a base di agnello. Ok. Ah. Per una questione, diciamo, di risparmiare un po' l'animale. No, divide gli agnellini che cresceranno e che saranno probabilmente più produttivi in seguito. Quindi giusto, giusto. Senta, un po' controcorrente. Controcorrente, è giusto ogni tanto anche offrire delle cose originali diverse, altrimenti facciamo tutti le stesse cose e non c'è gusto. Ma solo cose vegetariane, quindi, e non agnello? No, si mangia carne, si mangia tutto, però l'agnello, a Pasqua abbiamo deciso che era un piatto. Vabbè, come mai? Fare... Cioè, salvate l'agnello, ma invece ammazzate la lontra? La mucca? La lontra non la ammazziamo. Però facciamo, gli diamo tempo di crescere anche all'agnello. Non c'ha mercato, la lontra per ora non c'ha mercato. Senta, alla Locanda dei Girasoli, possiamo dire questo: che un po' come insomma, la sindrome di Down è causata da un cromosoma in più, la coppia 21, sappiamo. Insomma, anche lì da voi nel vostro locale si trova qualche cosa in più che in un locale normale, qualche cosa di molto diverso, diciamo, dal locale normale. Ci racconta un po' come nasce questa esperienza e come funziona. Sì, la Locanda Girasoli nasce per fine degli anni 90 per iniziativa dei genitori, di un gruppo di genitori che volevano trovare uno sbocco lavorativo e dignitoso ai loro figli che erano affetti da sindrome di Down. E questa fu l'esperienza, la prima esperienza nata in Italia su questa materia. Sì. Devo dire che alti e bassi hanno tenuto il mercato per un buon periodo, è stato un periodo entusiasmante secondo me, anche di esperienza, di conoscenza, anche da parte, diciamo, delle persone, perché si parte dal presupposto che lo svantaggio non va eliminato, vanno abbattute invece le barriere culturali. Sì. E questo è il vero problema, non si elimina lo svantaggio, ma si eliminano le barriere culturali. Certo. E questo fu un grande intuito da parte delle famiglie. Poi però c'è stato un periodo di crisi e siete subentrati voi del consorzio, se ho capito bene. Nel 2012 stavano per chiudere perché, diciamo, al di là della crisi, diciamo, totale, sì, il mercato stava soffrendo molto la Locanda per una serie di questioni, comunque, perché gestire comunque un ristorante significa comunque stare sul mercato, quindi stare sul mercato significa tenere i conti in ordine, cercando di bilanciare l'equità sociale, quindi l'idea di inserimento lavorativo, con quello che è poi l'economicità, perché una delle caratteristiche che poi anche noi abbiamo mantenuto è quello di non richiedere contributi pubblici. Sì. Senta Rimicci, se può avvicinarsi di più al telefono, forse la sentiamo un po' meglio, perché abbiamo una linea un po' debole. Possiamo dire anche un'altra cosa, che fra l'altro uno, forse il vostro aiuto chef, se ho capito bene, ha partecipato al programma Hotel 6 Stelle su Rai 3. Questa Emanuele, esatto. Questa bellissimo docu-fiction, non so se si dice così, insomma, questo programma basato... Di cui abbiamo parlato spesso. Abbiamo parlato anche noi. Ci ha proprio insegnato che per i ragazzi con sindrome di Down lavorare in questo ambito, l'accoglienza, l'incontro, anche perché no, il servizio al tavolo con la loro simpatia, è proprio una peculiarità che si sposa con loro. Insomma, l'oste è un piacione di per sé, lo sappiamo. E i ragazzi Down lo sono anche, sanno essere molto simpatici. C'è questo anche, questo elemento? Sì. Guardi, chi viene da noi prova un'esperienza secondo me quasi sensoriale più che gustativa, nel senso del cibo, perché si perde poi in quello che io definisco un caos positivo, no? Perché i ragazzi hanno un'espansività naturale e nell'approccio con le persone che disorienta a volte, se non sei... Però poi ti tirano dentro in qualche modo. È vero, sono bravissimi. A me è capitato a Brescia, al liceo Calini, dove la mensa è gestita da ragazzi con la sindrome di Down, che sono dei ragazzi bravissimi, e mi è capitata questa cosa. A parte che alla fine sono finito pure in cucina ed è stato un grandissimo divertimento. Ti hanno messo a cucinare o a lavare i piatti? Mi hanno messo a lavare i piatti perché non sono buono a cucinare, e sono molto più bravi loro. Senta, però lei diceva, cioè, le difficoltà economiche non mancano, no? Cioè, come per ogni attività economica, per ogni ristorante. Come va la gestione? Cioè, è un locale che vive senza finanziamenti esterni? Questo è, in questo momento, è un locale che vive esattamente con l'investimento che ha fatto il Consorzio Sintesi, e di fatto il Consorzio Sintesi, essendo poi costituito a sua volta di cooperative di altri disabili che lavorano in altri settori, sì, può dire che in questo caso i disabili aiutano altri disabili. Certo, perché modo, con gli introiti... Esatto, si finanzia anche il consorzio, semmai. Il consorzio finanzia. Però anche loro prenderanno il loro stipendio, no? I ragazzi che ci lavorano. Naturalmente stanno in busta paga, loro prendono una busta paga, naturalmente rapportata alle ore lavorate che fanno, sì, tenendo presente naturalmente che hanno dei limiti di reddito derivanti di, diciamo, da le pensioni che già prendono, e quindi bisogna rispettare comunque il limite, diciamo, sì, di un tetto. Però devo dire che i ragazzi, se fosse per loro, sarebbero tutto il giorno con noi, perché secondo me noi ci divertiamo, io mi diverto. Ma se, adesso raccontato così sembra che vada tutto sempre bene. Ci sarà stato un momento di qualcuno che, no, si è lamentato, qualche momento critico? Allora, le lamentele, allora, ci sono state, ma sono state più su chi cucinava, chi stava in cucina è stata... Sui ragazzi lamentele non ci sono state. C'è stato un periodo nel quale, quando siamo subentrati, in effetti, che c'erano pochi ragazzi, cioè si era quasi invertita, perché molti ragazzi erano andati via, quindi erano venuti a mancare, diciamo, l'elemento essenziale e caratterizzante alla Uganda, sì, erano i ragazzi con sindrome di Down, sì, poi noi abbiamo allargato la sindrome di X fragile e Williams in questo momento. Gli ultimi tre ingressi sono ragazzi della Silver Williams che fanno le preparazioni la mattina. Ma e quindi i clienti si lamentavano perché c'erano troppi pochi ragazzi Down? E certo, sembrava quasi uno specchietto. Volevano fare l'esperienza extrasensoriale, come diceva lei, invece mi sembra una cosa molto bella. Un posto normale, che bello. Ci dice un'ultima cosa, invece, un piatto forte, visto che insomma, tra un po' è l'ora di pranzo. Ah, la coda alla vaccinara. Che non so cosa sia, perché la coda alla vaccinare da non romano. È una coda, è la coda, diciamo, del bue che viene tagliata e cucinata per circa 4-5 ore in un sugo. Sì. E con il sugo si condiscono i maccheroni. È una cosa buonissimissimissima. Questo profumo che comincia a aleggiare, esatto, nell'aria. Quindi riusciamo a ricordare che alla locanda dei girasoli non sono vegetariani. A volte proteggono l'agnello, ma comunque la coda alla vaccinara si la trova, fanno per delle Pasqua. Delle certezze ci sono. Grazie Enzo Rimicci del Consorzio Sintesi. Grazie. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Non me lo posso permettere. Non me lo posso permettere. E non ci devo riflettere. Te lo dico a chiare lettere. Non me lo posso permettere. Quindi ti dico di no. Chiedi lumi tu, luni tus, sarai l'osso per Ettore. Credo nell'onestà, la disillusione non me la posso permettere. Ma la bici l'attacco, quattro catene, troverò un posto per metterle. Scordare la tua e poi fare del sesso, non me lo posso permettere. Sbagliare la curva e ti fare lo stesso, non me lo posso permettere. Vorrei buttarmi in un'impresa come un opossum nel nettare. Finisce che invece mi butto di sotto ed è meglio di no. No! Ciao Federico Taddia, buongiorno. buona domenica. Buona e buona Pasqua. Pasqua anche a te, Fede. Oggi ci siamo goduti un po' di più il Caparezza di Non Me Lo Posso Permettere, che tante altre volte invece avevamo dovuto tagliare. Scorciare. Perché eravamo sempre in ritardo. Oggi c'è tempo invece. Oggi abbiamo Pasqua. Tempo per parlare di tutti i progetti, le iniziative piccole e grandi che cercano fondi, sostentamento in rete con il crowdfunding, un modo anche così per vedere un po' da che parte tira il vento e quali sono le tendenze, le novità. E Fede, oggi dove ci porti? Oggi partiamo con la presentazione di una nuova piattaforma. Molte volte inizio così. Questo vuol dire che è un periodo fertile per le piattaforme. Sì, tante piattaforme tematiche, nel senso che c'è proprio questa idea di organizzare per argomenti comuni lo stesso portale, lo stesso sito, per avvicinare sia chi ha progetti inerenti all'argomento o dato, sia i potenziali supporter. E questa nuova piattaforma si chiama proprio Sport Supporter ed è la prima piattaforma di crowdfunding sportivo in Italia, per aiutare le piccole e grandi società sportive. È un progetto nuovo, innovativo, molto bello. Ci sono già un paio di progetti lanciati. Uno interessante si chiama, è lanciato dall'oratorio Murialdo ed è un corso di, loro dicono, in questo momento di grande crisi economica, per alcuni lo svolgimento di un'attività sportiva può risultare un lusso economico. Sì, è vero. E quindi è nato il progetto di 100 borse di studio per partecipare a un corso di avviamento al karate per i ragazzini dell'oratorio. Piccola, però nel suo piccolo è geniale, no? Perché è proprio l'aiuto di tutti. Fede, tu hai insomma figli già un po' più grandi della mia e avranno già iniziato attività sportive, lo sappiamo perché ti abbiamo trovato un paio di volte sul campo di rugby la domenica. È anche un costo, no? Per i genitori spesso far fare delle attività sportive ai figli, quindi benvenuto questo progetto di crowdfunding. Qui 14.000 euro, insomma sono 100 borse di studio, comunque è una cifra consistente, 14.000 euro è l'obiettivo, si sono dati 30 giorni di tempo e anche qui c'è la possibilità ovviamente di partecipare e diventare poi socio onorario, in cambio ti vengono dati adesivi, le magliette, insomma sempre poi, a differenza della colletta al crowdfunding c'è la ricompensa, quindi certo, diventi veramente parte attiva del progetto. Vi ricordo solo una cosa, che tutti i link di queste segnalazioni che ci fa il nostro Federico Taddia li trovate sulla pagina internet del programma, al sito di radio24.it, sulla pagina di Si Può Fare. /24. Il secondo progetto invece si chiama Liberi Tutti, il 25 aprile 1945, con gli occhi dei bambini. Sì. È un progetto che trovate su produzionedalbasso.com, è lanciato dal MUBA, che è il Museo dei Bambini, presso la Rotonda della Besana a Milano. E l'idea è, hanno intervistato nonni anziani che all'epoca della liberazione erano bambini e hanno fatto una sorta di Radio Londra, vogliono realizzare una sorta di Radio Londra all'interno del MUBA, quindi una postazione dove poter sentire, oltre a vedere questi anziani, il video, le riprese che hanno fatto, sentire anche tutti i rumori dell'epoca, però dal punto di vista dei bambini, quindi saranno degli ambienti sonori a misura di ragazzo, proprio per ricostruire le sensazioni tattili, ma anche gli odori, i suoni, cosa detto, per far fare un piccolo viaggio nel tempo ai giovani visitatori e vivere in maniera multitasking il clima della libertà. Molto bello. Molto bello, poi quest'anno si festeggia i 70 anni del 25 aprile, quindi perché spesso insomma, sembra molto bello. Questa ricorrenza per i più giovani è sempre più difficile, no, da afferrare, proprio per la mancanza di vicinanza con storie concrete, con storie insomma, che si possono toccare con mano. Qua si possono quantomeno vedere e sentire proprio. Questa cosa strana, perché saranno bambini, incontreranno anziani che però portano il loro ricordo di bambini. Di bambini. È un bellissimo intreccio tra contemporaneità e passato, però un passato che vive, perché i bambini avranno appunto la possibilità di toccare questi vecchietti, ma anche tuffarsi nelle sonorità dell'epoca. Quindi mi sembra una cosa molto, molto giusta, molto interessante. E i riferimenti, diamo i riferimenti per questo progetto? Produzione dal basso, Liberi Tutti, il 25 aprile 1945 con gli occhi dei bambini, il nome da inserire, ma basta liberi tutti e si va al link diretto del... Non c'è molto tempo però, perché ormai ci siamo, mancano 20 giorni, poco sì, più. Sì, infatti, 14 giorni rimanenti, mancano ancora 2.000 euro per poter concretizzare il tutto, però già il 60% della cifra è stata raccolta, quindi ci bene, siamo. Ce la si fa, ce la si fa! Ho una terza segnalazione che invece arriva da Savona, molto bella questa, proposta da Arte e Scienza. Arte e Scienza è una società specializzata nella divulgazione scientifica e in particolare nella costruzione di modelli cetacei che loro, con i quali forniscono i musei più importanti di tutto il mondo. Quindi c'è questa società che ha un'iniziativa che secondo me è particolarmente curiosa, che è quella dal 10 al 13 settembre 2015 a Camogli, e vogliono spiaggiare 10 balene. Vogliono spiaggiare 10 balene. Bellissimo. E quindi hanno lanciato questo crowdfunding, perché le balene da spiaggiare sono ovviamente da costruire, sì, in carta pesta e altri materiali sintetici. Tutto ciò ha un costo, 10.000 euro è il pacchetto completo, e hanno lanciato questo crowdfunding proprio per fare questa mostra all'aperto, che è una sorta di manifesto per la tutela ambientale, però con questo spiaggiamento collettivo per far vedere, far rivivere, dimostrare quelli che sono appunto gli effetti dell'inquinamento. E 10.000 euro per spiaggiare 10 balene, giusto? 1.000 euro a balena. Esatto, volevo capire quanto mi veniva la balena di cartapesta al chilo. Come andiamo qua con le ricompense? C'è qualcosa o bisogna vince un'acciuga di cartapesta? Le ricompense sono 50 euro, cioè ringraziamento, con 100 euro avrà il nome su una di queste balene, mentre con 3.000 euro in più il sostenitore avrà una scultura in scala 1:1 di un osifio, che è appunto una specie di balena. Quindi, insomma, Usti, che è veramente scomoda quella, nel senso che poi devi portartela a casa, devi comprarti un bilico. Esatto, non male. Insomma, quindi anche questa è su eppela.com, questa è la piattaforma, Pagine dal Mare è il nome del progetto, per trovare appunto come finanziarlo direttamente. Come spiaggiar balene con solo 1.000 euro. Poi un giorno ci dirai, Federico, dove le trovi tutte queste notizie, oltre che a andare a navigare sui vari siti, perché... non è male. Sì. Non sono male. Il segreto professionale, sì. Ce n'è un'altra? Ma è una curiosità, che però per appunto abbiamo detto che quanto è contemporaneo il crowdfunding. Il 1 aprile, quindi pochi giorni fa, Idea Ginger, che è una piattaforma di cui abbiamo già parlato, ha lanciato un crowdfunding molto particolare, si chiama Gingerenda, completiamo la Garisenda. Hanno lanciato un progetto di crowdfunding civico dedicato alla raccolta fondi per il completamento della seconda torre di Bologna. Sapete che Bologna... Qua giochi in casa, Fede, Esatto, quindi bastano 150.000 euro per costruire per intero la seconda torre. La ricompensa, allora, con 10 euro giusto un grazie, e con 500 euro la possibilità di allungare 30 centimetri di torre da solo. Con 10.000 euro potevi anche affittare la torre per una notte e andarci a vivere. Ovviamente era un pezzo d'aprile. Ecco, appunto. Ma soprattutto con 150.000 euro, se si costruisce una torre, bisogna dirgli di venire a dare dei consigli a quelli di Expo, direi. Sì. Era troppo bello per essere vero, era un bellissimo pezzo d'aprile. Grazie, Fede. Buona Pasqua, grazie mille, ciao. Queste erano le segnalazioni, Federico Tadia, sul crowdfunding. È tutto anche per oggi, sai? Ce l'abbiamo fatta. Siamo quasi alla fine. Possiamo andare a cercare le uova. Possiamo andare a cercare. In realtà siamo ancora a metà, diciamo a metà partita, perché manca ancora, ci sono ancora due blocchi di Si può fare. Risentiremo alcune, un paio di storie, di interviste che abbiamo fatto. Il best of, giusto? Visto che ti piacciono le parole inglesi. Il meglio di. È proprio un caso nel quale possiamo usare l'italiano. Ma certo. Anzi, d'ora in avanti, Gabardini, sei attenzionato su questa cosa qua. Dillo in italiano, perché a te va bene. L'inglese ti scappa un po' troppo facile. Ma non è vero, ma io non le uso proprio. Sto scherzando. Però... Cari ascoltatori, ringraziamo naturalmente il nostro Andrea Piana, autore insieme a noi del programma, ma anche Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti in redazione

Black sono tornati a casa 5.361 pezzi del nostro patrimonio culturale grazie ad un'operazione dei carabinieri. Noi abbiamo in collegamento con noi il maggiore Antonio Coppola, del comandante del reparto operativo Operazioni Teseo. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Operazione Teseo, intanto perché avete scelto questo nome bellissimo? Guardi, Teseo perché è uno dei cratereattici principali, uno dei più importanti, raffigurava proprio il mito di Teseo, per cui abbiamo scelto il nome in base ad uno dei reperti sequestrati. Quanti sono? Quella cifra che ho detto io, 5.361? Sì, circa, insomma, sono poi in realtà anche di più, perché questi sono i reperti che siamo riusciti a portare dalla Svizzera dopo averli individuati qualche anno fa nei magazzini, nelle disponibilità di questo mercante internazionale. Un mercante era un ladro, però, un Arsenio Lupin. È una filiera un po' più complessa, sostanzialmente i pezzi venivano scavati illegalmente nelle aree archeologiche italiane, poi attraverso una serie di passaggi stoccati in questi magazzini, in questo caso in Svizzera, e poi da lì studiati, restaurati e successivamente collocati sul mercato internazionale, quindi a collezionisti privati piuttosto che a strutture museali. E che pezzi esattamente avete recuperato? C'è qualche cosa di particolare? Penso di sì, insomma. Guardi, sono tutti reperti di straordinario valore, sono tutti reperti archeologici, ci sono anfore, crateri, vasi plastici, e che provengono dalle principali aree archeologiche italiane, quindi dalla Campania, dalla Puglia, dalla Sicilia, ovviamente dal Lazio. Ci sono alcune importantissime ceramiche etrusche, altre affreschi di aria pompeiana che sicuramente sono state depredate dalle ville vesuviane. Insomma, ci sono tantissimi oggetti di grandissimo valore artistico. Tenga conto che alcuni stiamo ancora provando a riportarli in Italia. Recentemente abbiamo fatto rientrare in Italia, sempre sulla base di questa attività investigativa, altri due importanti vasi che erano all'asta a New York, che però facevano parte, insomma, di questa depredazione sistematica delle aree archeologiche italiane. Ma mi scusi, io sono lo stupido dei due, ma una cosa che non ho capito è come funzionava, nel senso che uno va in un sito archeologico, scava per i fatti suoi, piglia delle cosine e se le porta via? O ho capito male io? Diciamo, è una semplificazione questa, però il senso è molto, molto vicino alla realtà. Soprattutto negli anni 70-80 c'erano delle vere e proprie batterie di tombaroli che ovviamente setacciavano le aree archeologiche dove non insistevano degli scavi illegali effettuati dalle soprintendenze, e di notte provvedevano loro a scavare in queste aree archeologiche, depredare, insomma, tutto quello che rinvenivano. Certo. Dai tombaroli poi attraverso vari passaggi questi pezzi vengono poi collocati sul mercato degli appassionati, a volte possono essere collezionisti privati. Ovviamente più il bene archeologico è di valore, maggiore era anche l'appetibilità da parte di importanti strutture museali, penso a molti musei americani ad esempio, ad acquistare. Ah, perché li vendeva anche dei musei poi, quindi diciamo alla luce del sole. Molti oggetti negli anni sono stati collocati e tanti altri ce ne sono ancora individuati ed in importanti strutture museali in giro per il mondo. È ovviamente un'operazione difficile quella di farli rientrare, perché bisogna dimostrare che la provenienza avevo letto che mi faceva ridere che il trafficante d'arte era libero perché i reati erano in prescrizione. Allora io mi immaginavo che fosse in prescrizione perché effettivamente, essendo gli oggetti tipo del 1000 avanti Cristo, uno dice forse beh, forse è andato in prescrizione. Intanto però appunto su questa figura, diciamo, del mercante, no, che era l'ultimo anello di questa catena, come si presentava? Era chi era questa figura di mercante? Cioè, per gli appassionati poteva essere una persona rispettabilissima, che aveva tutte le carte in regola? Ora, le dico che quando i miei uomini sono hanno individuato i magazzini, in questo caso i magazzini in Svizzera, sì, per l'idea, davanti a loro si è presentata una scena quasi surreale, nel senso che i reperti a volte erano catalogati, c'erano dei book fotografici. È normale che in questo caso, ad esempio il caso del soggetto a cui poi abbiamo sequestrato questo tesoro e confiscato poi successivamente questo tesoro, non aveva una visibilità diciamo ufficiale, perché questi grossi personaggi che poi hanno mosso per anni il mercato illegale dei reperti archeologici erano l'interfaccia, come dire, delle persone rispettabili, quindi dei collezionisti privati piuttosto che i direttori di musei in giro per il mondo, quindi loro restavano nell'ombra, ma in realtà erano quelli che muovevano di fatto il mercato di importantissimi reperti. Quanto tempo vi c'è voluto per portare a termine questa operazione? Quando sono iniziate le indagini? Tenga conto che questa attività dalla sua fase embrionale ad oggi comunque è durata già un decennio e non finisce, perché forse è tanto importante quanto i reperti che abbiamo finalmente restituito allo Stato, alla fruibilità di tutti. C'è un patrimonio informativo costituito da un vero e proprio archivio che abbiamo, documentale, che abbiamo sequestrato a questo nostro indagato. Attraverso questo archivio ancora oggi noi riusciamo a individuare e recuperare dei beni che sono in giro per il mondo. Ripeto, recentemente abbiamo fatto rientrare, perché posti in asta a Christie's New York, uno Stamnos e una Pelike che proprio facevano parte di questa attività di saccheggio. Quindi, e che succede, mi scusi, a uno che compra un'anfora all'asta Christie's, spende un sacco di soldi e poi arrivate voi e dite guardate che questo lo prendiamo noi? Ovviamente le procedure sono differenti a seconda che si tratti di un collezionista privato piuttosto che di una struttura museale. E bisogna innanzitutto essere caparbi e bravi nel riuscire a dimostrare che il pezzo è di proprietà dello Stato, che quindi è un oggetto scavato illegalmente, certo, in un'area archeologica italiana. Ma in quel caso poi quando riuscite a dimostrarlo, ci sono varie strade, c'è una strada diciamo prettamente giudiziale, quindi attraverso delle commissioni rogatoriali internazionali. In alcuni casi, come ad esempio con gli Stati Uniti, esistono degli accordi bilaterali. Insomma, più carte bollate che Indiana Jones, ecco, cioè, il vostro lavoro da questo punto di vista è lungo. Non sempre, perché molto spesso attraverso anche la grande rete di cooperazione internazionale di polizia, che negli anni il tutela patrimonio culturale dei carabinieri è riuscito a intessere, noi riusciamo a poter fare delle vere e proprie investigazioni coadiuvati dai colleghi esteri in tanti altri paesi, oltre ovviamente all'Italia. Complimenti veramente. Grazie a Maggiore Coppola. Ci riporti anche la Gioconda, diciamo. Già che ci siamo. Quella è un po' più difficile. Ma come più difficile? Sappiamo esattamente dov'è. Sì, abbiamo le coordinate. Esatto. Buona giornata. Grazie mille. Bocca al lupo per tutto quello che fanno i carabinieri. E termina qua questa puntata di Si può fare, puntata registrata, nella quale abbiamo risentito anche alcune delle storie che sono andate in onda nelle scorse settimane. Grazie per essere stati con noi. Se volete scriverci, siamo su Facebook, Si può fare trattino Radio 24, ma anche su Twitter, il nostro account, ve lo ricordo, è @ Si può fare 24. E ci risentiamo domani mattina con un'altra puntata del meglio di lunedì di Pasquetta alle 8:15, poi in diretta naturalmente a partire da sabato prossimo alle 7:30, come sempre ogni weekend. Ciao a tutti, da Alessio Maurizi.